Attenzione, canale 10, cambio. Avanti, chi è? Gian del Carlo, ciao. Ciao Gian. Due giorni che non entra nessuno, non ho sentito a nessuno, boh. Anche io ieri ho acceso, non c'era nessuno, ho acceso due o tre volte, te lo comando, ieri mi troppo confermato. Abbiamo acceso, fatto chiamata, tutta il va, ho detto come mai non c'è nessuno già, non c'è manco Natalino, ho detto ho chiamato che Natalino ci sei, boh. E io dopo che ho visto che non c'era nessuno me ne sono andato, ho spento tutto e via, cosa? Magari è una roba da fare, non lo so, Rantapignana sarà sotto il turchio. E boh, chissà un dietro buru. Sotto il turchio della zia. Quella non è una zia, è un carabiniere travestito. Mamma mia, come la mia ex suocera. Ah. Chissà sì che era un carabinieri, stavo entrando con Lucci Barrati quando gli dice la cosa. Allora. Mamma mia, morfia. Per fatelo inculcare le cose che ti diceva, ti guardava con la faccia di latte e con gli occhi sbarrati. Aspetta che il telefono è andato lì. Sì.